attenzione, binario 10, K. Sono andato io. E quando lo dimettono? Gianni? Ehi, avanti. Questo è il 50 collegato al mixer. Vedi un po' se lo fa lo stesso. Sto provando, c'è questione del microfono. No, non lo fa così, non lo fa. Così è chiaro. Com'è la radio? Se vuoi posso aumentare, sono al minimo dal mixer. No, già è bella, va bene. Luca, va benissimo. Ciao, Cri, buonasera anche a te. Sì, perché lo sai che il 50 non avendo un circuito di amplificazione. Lo sto aggiustando con il mixer, K. Posso sempre... sempre aumentare quando volete, come volete, toni, bassi, alti, medi, stretti e larghi. E grazie, col mixer addirittura. Oh, yeah. Però è troppo ingombrante così lui. Ma tu non l'hai visto questo mixer? È 20x25 già. Però è comodo, guarda, sia per gli ingressi dell'audio, come sto usando adesso, sia per le uscite, soprattutto anche, capito? Poi ci collega la colonnina, regoli bassi, alti, anche lì, guarda, ti fa un effetto che è meraviglioso. No, ma già lo sento, sempre con le MC60. E tu sai benissimo che questo non è a circuito di preamplificazione. Adesso ti attacco quello da studio, sempre microfono. Non so se ho il tuo numero o se mi era sparito con la scheda nuova. Ti mandavo la foto di quello da studio, aspetta che lo collego. E intanto ce l'ho in carica al telefono perché scarico a morte, che stavo ascoltando a Pino Grazioli e poi mi si è scaricato del tutto, l'ho messo in carica. Vabbè, mandamela, poi la guardo dopo. Ma fa il rumore strano, sta innescando. Hai capito, Luca? Fa brrrr. No, questo non va, Luca. Sta facendo un rumore tipo alternata così. Ma anche parecchia. Ehi, dove sei Cristian adesso? Graziella. Ah, sei vicino, là. Adesso sì. Ehi. No, pensavo che l'avessero già dimesso, perché tu l'altro giorno mi hai detto dovranno dimetterla giù. Io fece, adesso l'hanno... sta andando da mangiare semiliquido, adesso proprio a pezzi, lo stanno già adottando la metà zona. Ah, perché gli stavano dando quello in sacca? Esatto, adesso quello sacca io l'ho tolto, ho la flebo per essere idratato, perché lui beve poco, adesso sta mangiando semiliquido, adesso gli danno a pezzi, piano piano stanno abituando a mangiare come mangiare. Dai, piano piano già si mette a posto. Sì, tanto c'è una passeggiata per me ormai. Dov'è? Al marino? Al civile. Ah, acciugavi. Poi, ma poco fa, ma all'alloggero, scusa, il telefono era Tino, era Tino Muscolo. Tino era? Era dietro di me col furgone. Ah. Io, diciamo che era a 50 km orari. Stavo giocando con l'acceleratore, c'era un piano. KK. Ma col camper? Con il furgone di lavoro. Ah, ho capito. Vabbè. E io ieri sono andato a fare la risonanza magnetica. Mi volevano mandare a Oristano oppure a Nuoro. Meno male l'ho trovato qua a Sassari, al Policlinico. L'ho chiamato ieri e avanti ieri me l'hanno fatta ieri. Ma io per la risonanza non ho problemi. C'è l'Ozzini direttamente. Ozzini? No, io l'ho fatta qua a Sassari. Che me lo faceva fare a Ozzini quando c'è a Sassari il posto. Guarda, quanto ho fatto a resistere, Cristian. Dai, dolori, non potevo muovermi, avevo i piedi legati, il camice, la piastra sopra il petto, scommessi i rumori, le cuffie, avevo tutto quanto, ero bardato, che stavano messo cuffietta in testa, tutto, questi rumori, bimbo, babbo, sempre gusciosi. No, a me io faccio il tiri perché due fuglio me la fanno entro due giorni. Ma io ho avuto la fortuna, diciamo, qualche santo dal cielo è sceso perché qua non ce n'erano per niente. E ho chiamato al cupo, stavo già andando in ambulanza giù a Nuoro, ma ci vogliono 180 euro, poi il fermo ambulanza, dovevi pagare eccetera eccetera, quindi ho provato, mi è venuto un flash, adesso provo al policlinico, ho provato, che non sa che fortunato c'è un posto, posso immaginare, no, io conosco un medico che ne fa giù a Ozzieri, e me la fa subito. Ho capito. E beh, tu risolto con la gamba. Io ho risolto, ma se ne è passato. Adesso mi sta con le pegnative, faccio anche la terapia magnetica con la schiena. Io adesso l'ho fatto al bacino, perché nelle gambe non c'ho nulla. Adesso l'ho fatto al bacino e vediamo se dipende da lì. No, io so cosa ho già, perché io le 4 e le 5. No, io gli anelli della colonna vertebrale c'erano la distanza giusta, tutto quanto è giusto. No, l'hanno già fatta quella della colonna vertebrale, non c'ho nulla. Adesso l'ho fatto al bacino. Vediamo un po', ma io ho dolori da non dormire la notte, mi sono fisso con i dolori, sono sempre con queste iniezioni, coso, occhi, non ti basi di nulla la vita. No, io i dolori ce li ho forti, da non poter resistere, da vedersi da gridare, avanti lui. Andiamo, io sono qua. Flipper, flipper, flipper. Attenzione, binario 10, copiate Antonio K. No, non sentiamo nessuno noi. Magari. Ciao tu. Ciao, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Indovina, io dai, provo a indovinare chi sono. Oh Gianni, ciao già. K, non mi riconosci col 3009? Un po' più basso arrivi. Guarda solo i segnali lì. 1-3, prova. 9-9, e io come sono? Ma sono andato in varia, 9-20 sì. Cavagala, già va bene, già va bene. E se al trabacco si fermo lì? Cappa, sono lì, sono. E beh, tu la guida quando la dai. Ehi, cazzo, va che mi rifini, lasciami finire le guide, ho appena incominciato. Ehi, vabbè, là. Ma già stai guidando, oltre le guide che stai facendo, stai guidando? Sì, sì. E già va bene, perché così almeno ti fai la mano. Cappa. E tuo figlio? E mio figlio ha ricominciato a fare le guide, e ancora neanche lui, ne aveva fatto poche, capito? Poi sono andato in ferie, e quindi ha ripreso adesso. Cappa. Sono arrivi di cazzo un po' come i biati che si anghia, l'amo cazzo. Cazzo quando accedi fa... Che cosa? La macchia? La Kia Rio, a benzina. Lo sai qual è molto bella? Io mi sono sentito con un amico, mi è piaciuta tantissimo. La Dacia, la nuova che hanno fatto. Cazzo, è bella fuori come è fatta, i fari, belli, in stile. È bella dentro, silenziosa. Poi c'ha tutto il tablet dove si vede quando fa retromarcia, c'ha la telecamera, c'è tutto quanto, è veramente bella. Ma che è la chiesa minoretta, no? Sì, quella normale, dai, come si chiama, Sandero, quella lì, però adesso l'hanno fatta veramente bella, prima non mi piace assai. Capo, non so cosa, cazzo vado nei rubedi, però io cerco di andare piano, ma... Non lo so, devo stare attento quando c'è la partenza. C'ho il piede di biombo, va giù. Occhio, con la velocità, specialmente appena si è patentato. Se ti vedi, ma ne ha certa velocità. Quando si è appena patentato, la patente la vedi, ti la donna a maggio mai. No, devo andare piano anche, perché quando ci sarà il bambino, poi non devi correre. Però quell'istinto da tipo, capito? Già. Non so l'effetto che ti fa, quando cominci a guidare la macchina ti senti padrone, proprio un re ti senti quando sei in macchina. E non so l'effetto che fa, perché anch'io l'ho provato quando ero ragazzo, musica a tutto volume e via, e si parte. Specie con gli AC/DC mi assillavo davvero. Vabbè, no. Ma neanche quello, mi piace proprio, ma l'ha andato, non preso, cioè, Già lo so. L'istinto proprio di, non lo so, forse a chi in famiglia di pura di gabbo, capisco. C'era mio zio, cazzo, che se no, se la macchina va via 150 e dove poteva andare a 160. Era in tutti i pura di gabbo con tutti i miei zii, babbo, vabbè babbo oramai si è caimato. Quando era più giovane già era, speri di la pura di gabbo, purretto, però. E siamo tutti così in famiglia, misuretta non te se ti sei data una caimata, misuretta camminava come una demonia, ma camminava un bel mio questa cazzo di macchina. Sei andata anche quando c'ho le bambine che andava piano, va. Siamo tutti così, siamo in famiglia. Avevamo tutti quanti rubati di biombo. Capisci abitati. Avanti Luca, ci sei. Ma Luca si è perso, avanti. Con chi parlo? Ma Cristian c'è, ci sei Cristian. Si è sceso a prendersi i grattevici, deve essere che ha vinto e si è fermato. Gianni. Eia. Aspetta. Un passaggio lungo. Aspetta. Allora, questo è il microfono da studio. Questo è il microfono da studio, sempre collegato tramite mixer, capito? Mi piace più l'altro, però sì, con la verità, l'altro va meglio. Questo qua c'ha dei rumori di sottofondo che non mi piacciono. Ma quelli si possono togliere già. Se è un mixer, l'ho fatto della regolazione con Claudio, mi ha detto, mi ha ascoltato lui. Mi ha detto lascia così, meglio ti va così. Sì, adesso sì. Se non parli, io qua posso sbizzarrirmi come voglio, capito? Addirittura si sentono quelli dell'oratorio, così è, si aumenta. Poi posso regolare bassi, alti, i medi, vedi come cambiano la musica. Ok, così è molto bella, molto corposa, ok, 1, 2, 1, 2, 3, ok. E con l'MC60 ha provatola? No, non l'ho collegato l'MC60 al mixer. C'è il 50 collegato e prima devo collegare a fare, il 60 va bene, non si collega, capito? Poco fa era collegato e mi ha detto che stavo facendo la scarica. Aspetta, lo rimetto, vediamo un po' se... non lo so cosa gli ha preso. Ieri stava funzionando bene, Sì, all'inizio si sentivano rumori sottofondo e probabilmente era dovuto a quelli dell'oratorio. No, è questo, dal mixer, guarda. Vabbè, a parte il fischio perché c'ho le cuffie, vedi cosa succede se aumenta. Ma con che apparecchio sei tu adesso? Con 4.30 adesso. Dopo ti faccio sentire l'effetti 4.50. C'hai anche il 4.50? Dalla Iaeso però, non della Kenwood. Iaeso effetti 4.50. Mandami un messaggio perché non so se ce l'ho il tuo numero. Ho capito. Te l'ho detto, sta caricando il telefono come si mette in sesto. È proprio a zero. L'ho messo in carica. Come carica un po' te lo mando. Cosa ti stavo dicendo, Lu? Come non ce l'ha il mio numero, cazzo, mi hai avvisato di quella storia là e tutto quanto, non ce l'ha il mio numero. Io il tuo numero non lo so se ce l'ho, forse è Messenger ciò. Sì, non aspetta che abbasso di nuovo, che me ne stavo dimenticando, se no mi posso sorgere in cuffia. Ok. Avanti, lo senti a Luca? A voi lo sento, è forte pure. E io che tengo a tutti, non ne ho io ostacoli. Anche se sono basso, io lo sento a tutti quanti. E non che bomba. Bella zona è aperta lì. Stavo dicendo, tanto fate la casa lì e non vi pesci più a Roma, copia tutti i canti. Ma io non abito più in piazza Botta, io non me lo do, cioè se abito in via dei Corsi. Beh, che ci sia, lo so. No, residente lì sono. Già, lo so, anzi. E ho visto anche l'antenna tua. Già, fa. Già lo so, già. Mica ho fatto un bel lavoro in questa, non andava a mancarrocci un mese antenna. Cazzo, raggio boggio, c'è un segreto per saldare bene col saldatore. Gli uso lo spinotto, gliel'ho rifatto io, quello che andava all'antenna. E c'è un segreto che tutti non sanno. Praticamente tu la punta del saldatore la passi nella mola da banco, ma leggera, poco a poco. Poi tu vai a saldarci il coso, a vedere, diventa come che lo faccio la fabbrica. Io lo faccio, c'ho la spugnetta per pulire il saldatore, lo faccio con la spugnetta, senza grattarlo, e grattandolo lo consumi. Invece c'ho questa spugnetta, tu la bagni, ripassi il saldatore e ti fa la punta lucida. Non la devi consumare, devi passarglielo leggero. Rompimi. Poi tu vai a saldarci con quella punta lì. Diventa. E la prassi è comunque lo stesso, Antu. Avanti tu. Cristian, ci sei? Basta, ti andate di giù. Antu, riprendi. Ehi, mandamelo già, mandamelo che non ce l'ho. Perché io ho cambiato scheda, capito? Ehi, aspetta. Adesso riprovo l'altro microfono un attimo e vedi, non so se lo fa ancora. Già, scusa un attimo, ho dovuto rispondere al telefono. Gianni. Ciao, Antu. Dimmi, Luca. Ciao, ascolta, ma guarda se sta uscendo bene questo microfono, ho già scariche. Ma sento qualche... Non so cosa dirti, anche Gianni me l'ha detto. È il 60 questo, non so. Vabbè, rimetto gli altri, metto il 50, anzi metto quello da studio. Però come modulazione è 10, eh? E adesso ti faccio sentire il 50 attaccato al mixer. Ah, va bene, arrivo il segnale a latte dolce. Ehi, una cannonata, sì. Aspetta, te lo do di preciso, un po' di piccitti. Uno di piccitti, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova, guarda a vedere, ora. 9,5, sì, qua in questo apparato. Aspetta, guarda se è tutto a posto, qua sì, Gianni mi arriva a 9,40 più mai, anzi di più. Pensa che io sono in via Milano. Ma c'è dei bei picchi di modulazione a tu. Andiamo bene, va. Kappa. Così al minimo, vedi. Vedi che si aumenta un po' di più, però così lo mettiamo al minimo che è meglio, va. Pensa che io sono in basso, non sono in un palazzo. Però minimo 9,25, 9,30 la veloce te l'ho arrivato. E c'ho tutti i palazzi e tutti gli ostacoli. Pensa tu che tu arrivando in voce. Scusa tu. Che stavo. Hola? Mi viene un po'. Allora, ci siamo, sì? Ok. Stavo collegando il 50 tu. Capa, alza, che era meglio le 60, però anche se faceva quel fischio, però c'era una modulazione bellissima. Alzo, allora, guarda un po'. Mi spinge col mixer attaccato, vedi un po' che appena fa. Capa, già sta spingendo adesso. Abbassa un pelino. Beh, se te l'ho detto. Ecco qua. Ok. Poi posso ripeto regolare bassi, alti, vedi. Farlo da battaglia. Ecco, vedi un po'. Guarda se va bene adesso. Se posso lasciare così a tu. No, già va bene. Se aumento così è troppo forse, no? No, non è che sia troppo, che sentono dei rumori. Perché come modulazione ci siamo, ma si sentono dei rumori. Vabbè, perché prende tutto. È del 50, questo non è preamplificato, è solo il mixer che sta spingendo. Allora, vediamo un po'. Ok, aspetta, te lo metto nell'altra porta. Capa. Gianni, ci sei? Ok, questa è l'altra porta del mixer. Adesso le metto tutte e due, vediamo un po' uguali, tanto così non sto lì a... Ecco. Vedi un po'. Va bene a tu, lascio così. Sì, ti butti un po' di roba appresso, però la lavorazione è buona. Non ci sarebbe stata la ventolina, sarebbe stato un bombone. No, ventolina non c'è. La macchina si accende quella della radio. No. No, te lo posso eliminare il rumore a tu, capito? Te lo posso eliminare come vuoi. No? Faccio così, aumento questo volume, abbasso questo. Qua. Ok. Perché è molto sensibile il mix, capito, vedi? Guarda se va bene a tu. Va benissimo, ma che è un mixer? È un mixer per, che ci ha collegato queste robe qua. Una cannonata, è un Enix 802 Antu, un Enix della cosa, della Behringer. Ah, un mixer tipo per cantare. Sì, esatto, ci puoi collegare la radio, ci puoi collegare la radio, ci puoi collegare le uscite di radio dell'audio e modificartelo in bassi e alti, capito? KK, no, è una cannonata. Lo conosco quel mixer, l'ho anche utilizzato. Già lo sai che cosa mi piace a me. Se vedi il mio, oh cazzo, è una cannonata davvero. Vabbè, io lo uso per livello professionale, per cantare, capito? Già te lo mando. Audio Design Pro, tutto cromato, è una cosa spettacolare vederla, io te lo mando. Ho visto qualche foto forse su Facebook. Sì, se ci colleghi la radio lì, io. Aia, gna. Bravo, chi scusate mi piace a me, fammi il cantone. Se ci attacchi il baracchino, Antu, non sai come ti cambia da giorno alla notte, ma di brutto al mixer. Tu non hai neanche un'idea di quanto ti possa cambiare la modulazione e tutto il resto. Cappa, già lo so, già. A me lo dici, me l'hanno detto. Questo è piccolino, è comodo, perché è piccolino, capito? Però c'hai 4 ingressi microfonici. 2 XLR, 2 a jack, dove appunto adesso sto usando il jack, adesso ti attacco il microfono da studio, e quello oro che ti ho mandato, adesso ti attacco quello. Ma ti piace quel microfono, eh? E poi gli la carta da sopra, lascialo lì. Sì, mi aspetta. Ecco qua. Che cosa mi ha detto lui? Ma detto, ti piace quel microfono da studio che ti ho mandato la foto? È già un minuto che abbai tu già. Adesso te l'attacco, aspetta. Oh Lu! E cos'era? Un orco? Ehi, avanti! Ehi, no, a Luca sto cercando, Luca non c'è. Sì, mi sta mandando le foto. Luca! E vabbè, glielo do qua perché anche io ho cambiato telefono e la scheda nuova non ce l'ho più il numero suo, se no l'avrei chiamato, dai, non c'è problema. Luca! Aspetta che te lo mando io già. E adesso dov'è Luca Flipper? Guarda, te ho mandato il numero di Luca. E intanto adesso sta caricando il telefono, mi alzo dopo a guardarlo, grazie. Luca, che fa? Me Luca, ti ho mandato una bestia, ti ho mandato. Tu il numero di Luca ce l'hai, no? Mandali il mio di numero, Anto, fa la cortesia. Sì, aspetta. perché su un messaggio ce l'avevo, ma c'è scritto che non è più abilitato, che non posso accedere sul suo messenger. Boh, deve essere che mi ha cancellato, boh, pensando che boh. È impossibile. Allora lui, io il tuo messenger ce l'ho, però c'è scritto che non posso più accedere al messenger tuo, deve essere che mi ha cancellato. No, non credo proprio. Tanto mi senti? Capo, che ti sento, ma io ti ho mandato il corpo di Gianni, il numero. Ah, lo io, adesso ti mando, bello quello che mi hai mandato. Adesso ti mando una foto, aspetta. Questo è quello da studio che sto usando. Cazzo, è una bestia quel mixer, vabbè, professionale. Adesso, infatti io quando vado a fare le serate questo lo porto con me, lo porto a parte, porto tutto il resto e quello lì lo porto a parte, capito? È un'apparecchiatura molto, molto delicata e sofisticata. Bello. Bravo. Io lo uso per cantare, lo uso. Però io dico una cosa, mi hanno un altro piccolo, però quando uso quello è un altro pianeta. Siamo in un'altra leggenda. Oh Lu! Ehi già, aspetta, che sto memorizzando il numero. Sì. No, non lo sto dando già comunque. Non lo sto dando, ciò devo mandare il 450. Devo mandare a Napoli. Devi venderlo. A Napoli lo devo mandare il 450. Aspetti, mando la foto. Mi sto memorizzando il numero perché me l'ha mandato tipo screenshot Antonio. Devo decidere di mandarlo. Se qualcosa mi sarebbe, quel Galassi mi sarebbe interessato. Ma sei di quelli che ha fatto il telefono? Stavo, eri in macchina e stavi andando a dare la radio a cosa? Come si chiama? Non mi ricordo. Capito? Stavi tornando dal tecnico ed eri in macchina. Infatti ha detto, allora lui dico, se lo vuole, passa e si umilia. Cosa vuoi che ti dica già? Ha detto, poi la chiamata, mi chiamerà, passano i giorni, le settimane. E tu mi devi richiamare, cazzo. Io sicuramente te l'ho detto cosa succede, questo telefono nuovo non comprendo come te sia, praticamente metto la suoneria e a volte mi passa vibrazione e a volte non lo sento così quando vibra, capito? E poi lo sai cos'è? Che cambiando scheda deve essere il tuo numero, l'ho perso e non mi risultava, quindi forse non ho chiamato per quello, perché magari ho visto il numero, ma ho detto magari buh. E vabbè, comunque se lo ribusco il Galaxy come si deve me lo riprendo, ma lo voglio nuovo, impeccabile, se ne si è graffiato non mi piace. Ho già, è buono il Zappoli andare. Ma tu, io quello mio, chiedilo a chi l'ho dato. Non c'ha un graffio, capito? Niente, è perfetto. Ma guarda che i coperchi si possono sempre rimettere a posto, mi... ho già. Già lo so, però se è nuovo i coperchi sì, ma quando sono graffiati sopra solitamente sono anche consumati davanti, trattati alla cavolo di cane. E vabbè, comunque io sono fatto il suo gubignolo, Anto, non mi piace a me la roba viccia. Che si può aggiustare? Visto che un po' un randaggio mi sa, no, questo qui, questo che c'ho qua, ne avrei tolto il coperchio, gliel'avrei fatto nuovo, come la fabbrica. E sono sicuro che se mi metto ci riesco. Bisogna trovare il colore uguale, Baro. È un po' poroso, è come cosa. Quello te lo può fare solo uno, un carrozziere che usa il tintometro e mette giusto i colori che ci vanno. Te lo fa preciso. Baro, dammi, esci dai noghi, andi in via Marsiglia, da Corso. Ti fai vedere cosa, mi dici, me lo riproduci questo qua, questo colore qua che c'è il tintometro. Vado lì, te lo fa uguale, e tu vernici il tappo, non mi vuoi, sai mi. Non ho mai sentito un colorificio corto. E poi tu ce l'hai la pistola spruzzata. Ora sai che mi squilla. e invece vai a Predanida, visto dove c'è quel negozio dell'usato, dietro la piazzetta lì, c'è più avanti un negozio di vernici, lì te la fanno e te la mettono anche dentro la bomboletta e tu lo fai bomboletta. Io l'avevo fatto per la carena della moto. Uscendo, vai, che è uscita una bomba, ci risentiamo. Ehi, Antu, te lo devi mettere anche in macchina, così almeno quando uscite puoi modulare. No, non agisci di capo, perché quando c'è il lavoro, bisogna lavorare. Ok, dai, meglio qua, almeno, se sei fermo, vai qua. Ok, perché devi essere concentrato facendo le cose. Ciao, vai, ci risentiamo. Ciao, Antu. Avanti, lui. Bobo. Hola. Attenzione, canale 10, chi è rimasto come supplisti? Cristian, fatemi ragazzi, hai vinto. Bomba. Vabbè, ciao. Oh, lui. Vabbè, questo è 50. Questo è 50 gatto. È troppo alto, cazzo, è troppo alto. Ma se non mi ricordo niente degli altri, cazzo, tra blu. Allora, volume 1, guarda se va bene così. A2 mi sembrerebbe come regolato. Se no abbasso gli altri volumi. Vabbè, l'altro è come me l'avevi lasciato tu. Ma io cazzo vado in elicottero, passo al 20. Sì. Tutti a nanna, non c'è più nessuno qua.